Marina Pietra Gianfranco Rimondi. Marina era un'attrice, poi anche regista, ma diciamo il suo ruolo principale è l'attrice, insegnante di teatro. Gianfranco era drammaturgo, regista e insegnante. Diciamo che hanno fatto la storia del teatro di Bologna e non solo. Quindi sono due capisaldi dagli anni 60 in poi. Di qua l'idea di ricordarli appunto con questo evento. Che cosa succederà il 12 di novembre? Diciamo che si ripercorrerà un pochino la storia di questi due artisti dalla creazione del Teatro Evento nel 69 al Cesare Pavese, quindi un pochino tutto il percorso fatto, calcolando anche che loro ad esempio al Cesare Pavese ospitarono anche il Living Theater, quindi un teatro che all'epoca veniva chiamato di ricerca e via dicendo, passando poi per il periodo in cui Gianfranco diventò direttore dell'Ater Earth, Marina andò per Stabili, quindi Stabili di Bolzano, la Solfitta, Nuova Scena e via dicendo, fino alla creazione dell'ultima parte, diciamo, del Teatro dei Dispersi insieme a Salvo Nicotra e dell'Accademia 96, che era una scuola di teatro. Quando fu diciamo chiusa questa penultima parte, non ultima, si arrivò agli ultimi spettacoli con Marina che insegnò all'Arena del Sole, Arte e Salute, fino all'ultimo spettacolo l'anno scorso che fece in ricordo di Gianfranco, suo marito, su un suo testo inedito e mai rappresentato. Quindi ripercorriamo un pochino la storia, anche perché sono due personaggi che, nonostante siano stati tra i pochissimi, se a parte Leo, ad andare fuori Bologna, cioè quindi a girare l'Italia con gli spettacoli, tra parentesi con uno spettacolo soprattutto che raccontava di Bologna, l'operetta, l'eroica e fantastica operetta di Del Pratello, sono quelli che hanno, Gianfranco ha vinto un sacco di premi, Marina ha lavorato con artisti fuori da Bologna importanti, però sono poco conosciuti, un po' perché loro avevano un'etica e una normalità nel fare questo mestiere incredibile, e quindi non li vedevi come il grande regista o il drammaturgo, la grande attrice, no, cioè sembravano persone normalissime, e un po' perché la città di Bologna non ha mai riconosciuto il loro valore, mentre sono stati riconosciuti altri. Tieni presente che Gianfranco è stato uno dei pochi di quell'epoca degli anni 60-70 che, oltre a essere regista, sperimentatore così, era un drammaturgo, scriveva. Tu dicevi magari la città non li ha riconosciuti, però a giudicare dalle persone che interverranno mercoledì, colleghi, attori, registi, eccetera, appunto nell'incontro, questo riconoscimento invece da parte dei colleghi c'è? Sì, c'è, perché comunque, come dico io, loro hanno combinato un sacco di disagi, nel senso che hanno creato un sacco di attori e di registi, molti dei quali, tra cui ad esempio io, Alessandro Dampieri e altri, abbiamo continuato poi a lavorare, ma loro con alcuni hanno instaurato proprio un rapporto di amicizia oltre che lavorativo. La loro generosità a livello lavorativo derivava proprio dalla loro generosità a livello umano, disponibilità. Ad esempio anche nei laboratori amatoriali ci sono dei gruppi che si sono affezionati, infatti non ci saranno solo attori, registi o personaggi diciamo di un certo calibro, ma ci saranno anche persone che hanno iniziato facendo laboratori amatoriali, poi si sono affezionati, sono diventati amici e li hanno seguiti, perché loro avevano questa generosità di passarti il mestiere, di insegnarti, di darti tutto quello che sapevano, con un rigore, con un rispetto per questo mestiere, però quindi con un'etica incredibile, e questa loro generosità e disponibilità la dimostravano nella vita di tutti i giorni. Per chi ha continuato e non si è fermato sul discorso voglio fare l'attore, voglio sfondare, si è trasformato proprio in un rapporto di amicizia, di quasi di rapporto familiare, ecco. E ringrazio Elena Di Gioia e l'ERT che ci ha permesso di creare questo evento, anzi Elena è stata importantissima nella creazione di questo evento, l'ha voluto fortemente.